Siete sintonizzati su Radio Ernica. Buon ascolto. Radio Ernica, FM 105 900, www.radioernica.com. '1949. L'Italia è ancora un cumulo di rovine fumanti dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Una parte consistente della popolazione vive nella quasi totale indigenza. La ricostruzione, sì, è stata progettata, ma è ancora in embrione. In questa situazione c'è chi pensa che salvaguardare le tradizioni popolari degli italiani sia una delle strade della ricostruzione. Nel 1949 due personaggi che sicuramente paiono strani alle popolazioni ancora quasi del tutto contadine della Ciociaria iniziano a percorrere in lungo e in largo questa terra. Sono persone armate di magnetofoni e girano la provincia alla ricerca della musicalità antica, delle sonorità tipiche della Ciociaria. Cercano persone che ancora ricordano gli antichi canti e con molta pazienza li mettono davanti a un microfono, li fanno cantare e suonare. Faranno questo lavoro per 2 anni e il risultato sarà una imponente mole di suoni che verranno incisi, catalogati e tramandati, salvaguardando una cultura antichissima. I due animatori di questa ricerca non sono lì per caso, hanno un curriculum musicale alle spalle di tutto rispetto. Giorgio Nataletti è un etnomusicologo. Negli anni 30 ha fondato il primo archivio di musica popolare presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Nel 1934, insieme a Goffredo Petrassi, raccoglie, cataloga e incide una corposa mole di canti popolari della campagna romana. Nel 1934, per ricordi, incide 30 ninne nanne italiane, dedicando l'opera a Umberto di Savoia e alla moglie Maria José del Belgio in occasione della nascita della loro primogenita Maria Pia. Nel dopoguerra, sempre attivissimo sul fronte musicale, fonda il Centro Nazionale di Studi di Musica Popolare con sede a Roma. Ed è in questa veste che lo vediamo in Ciociaria a raccogliere i canti popolari di questa terra. Anche il suo compagno in questa avventura di grande spessore culturale non è un musicista alle prime armi, anzi, ha studiato composizione a Genova e a Roma, si è perfezionato alla Columbia University e insegna storia della musica al Conservatorio di Stato. Il suo nome è Luigi Colacicchi ed è nato ad Anagni il 31 dicembre del 1900. Lo strumento musicale preferito da Colacicchi è senz'altro la voce umana. Nel 1942 ha fondato il primo coro polifonico dell'esercito italiano, nonché il coro dell'Accademia Filarmonica Romana, di cui rimarrà direttore fino al 1968. Nel 1939 ha curato la parte musicale di un celebre documentario di Giacomo Pozzi Bellini, che racconta del culto della Santissima Trinità nel santuario di Vallepietra e delle tradizioni popolari ad esso collegate. Per la prima volta viene registrato filmato Il canto delle zitelle, una drammatizzazione liturgica della durata di oltre 2 ore. È il momento di maggior pathos del tradizionale pellegrinaggio che si svolge nel mese di giugno presso il santuario del Monte Autore, poco sopra Valle Pietra. Luigi Colacicchi è noto perché è stato un regista, compositore, ma soprattutto direttore di cori, e ha prodotto tantissime cose ed è notissimo perché è stato uno dei primi etnomusicologi italiani, raccogliendo materiale musicologico qui nella ciociaria e facendo e rendendolo noto attraverso la partecipazione al congresso di Trento del 1934, quando appunto rese noti i canti popolari di ciociaria, come li chiamò. Poi ha lavorato anche su un altro importante luogo del nostro territorio, del Lazio meridionale, a Valle Pietra, dove ha registrato il canto delle zitelle, il pianto delle zitelle e poi tutta la cerimonia in un celebre film, che venne, un documentario che venne premiato a Venezia. Il documentario ebbe un grande successo di critica alla Mostra Cinematografica di Venezia del 1939. Tuttavia, il documentario mostrava anche le scene di estrema povertà ed indigenza delle popolazioni locali dell'epoca. Questo non era gradito al regime, che non ne favorì la circolazione, anzi quelle poche copie che circolarono in Italia furono censurate, tanto è vero che la durata originale del documentario di 22 minuti fu ridotta a 17. Nel 1959-60 fu la RAI a tornare sull'argomento, producendo un bellissimo documentario di cui facciamo ascoltare un breve estratto, nel quale l'allora vescovo di Anagni, che molti di voi ricorderanno, Enrico Romolo Compagnone, intona il Veni Creator Spiritus. Il pianto delle zitelle è una sorta di sacra rappresentazione, il racconto schematico e interamente cantato della passione che si è tramandato per diverse generazioni, conservando intatti tutti i suoi caratteri. Pianto è l'intera sacra rappresentazione e indica lo stato di dolore per il martirio di Cristo. Sulla sua origine nulla si sa di preciso, ma c'è chi lo fa risalire al XVII o XVIII secolo. In esso sono confusi elementi popolareschi e liturgici. La liturgia vi si innesta all'inizio con il Veni Creator Spiritus e l'Oremus, introdotti dal vescovo di Anagni, alla cui diocesi appartiene il santuario. Gloria, Gli anni 30 vedono Luigi Colacicchi impegnato, oltre che come etnomusicologo e ricercatore sul campo di musica popolare, anche come autore di musiche per balletti e colonne sonore musicali per alcuni film dell'epoca. Si tratta di 4 film, forse il più famoso è Animali pazzi del 1939. Si tratta di un film dall'umorismo surreale, anche perché tratto da una pièce di Achille Campanile, diretto da Carlo Ludovico Bragaglia e interpretato da Luisa Ferida e da Totò. Dunque, avete capito di che si tratta? No, è la terza volta che ve lo spiego. Voi vi dovete fingere me, il barone Dolomè di Dolomè. Ullala! Ma voi non avete il neo? Sì, ce l'ho. Ma non in faccia. Tolomeo! Tolomeo! Accidenti! E lei, Luisa! Insieme alle attività di musicista, critico musicale, etnomusicologo, Luigi Colacicchi ebbe una intensa attività come direttore di coro. Nel 1948 fondò l'ensemble destinato a divenire uno dei maggiori cori italiani, famoso in tutta Europa. Si tratta del coro dell'Accademia Filarmonica Romana, che era composto principalmente da musicisti e cantanti dilettanti. La passione, la competenza, la puntigliosità di Luigi Colacicchi tirò fuori il meglio di questi cantanti dilettanti, e già nel 1950, partecipando a un concorso internazionale per cori che si tenne nel Galles, in Gran Bretagna, il sodalizio romano ottenne il primo premio, eseguendo il Dona Nobis Pacem dalla messa in si minore di Johann Sebastian Bach. La sua formazione musicale classica influenza non poco il suo approccio con la musica etnica della sciocceria, e questo viene fatto notare anche dal critico musicale Diego Carpitella. Nonostante sia ancora preoccupato di alcune formalizzazioni colte e di alcuni determinismi naturalistici, ha dato un contributo molto importante alla conoscenza del patrimonio etnico-musicale di una particolare area della Italia centro-meridionale. Infatti il Colacicchi ritrova le basi modali della musica etnica del Lazio meridionale, anche se insiste sulla discendenza dal canto gregoriano, considerando come elemento tipico la quarta alterata, tesi naturalmente discutibile che sopravvaluta l'influenza chiesastica sulla musica etnica. Tuttavia egli individua una spontanea polivocalità a 2 e 3 voci, a riprova dell'autonomia di questo patrimonio, e che egli ha reso con delle trascrizioni validissime. E quindi a questo punto ascoltiamo una delle sue trascrizioni più famose, la Ninna Nanna Ciociara, una mamma contadina che, tornando da una dura giornata di lavoro, deve allattare il proprio neonato. Oh. Ora chiudete gli occhi e provate a immaginare uno scenario diverso. Invece dei campi, dei pascoli della ciociaria, immaginate le vaste distese, le vaste piantagioni di cotone del sud degli Stati Uniti. Immaginate pure che una canzone del genere sia stata cantata da una Mahalia Jackson. In questo caso, forse questa ninna nanna l'avremmo trovata in una raccolta di spirituals. Se ci fate caso, le sonorità sono quelle, ma per una ragione molto semplice: perché la fatica del duro lavoro, dei campi in particolare, è uguale dappertutto, in ciociaria come nel sud degli Stati Uniti. E la musica popolare, la musica etnica, pur avendo in ogni regione dei tratti distintivi, ha tante cose in comune a qualsiasi latitudine. Per questo negli ultimi anni si è iniziato a parlare di world music, e in questo ambito Luigi Colacicchi è stato un pioniere. Ha riscoperto, catalogato e probabilmente salvato un patrimonio che si trasmetteva da secoli per via orale e che sarebbe probabilmente andato anche perso, ed ha proiettato il sound della nostra terra in quello più vasto, più globale della world music. L'attività di ricerca etnomusicale in ciociaria di Luigi Colacicchi non si fermò al 1949. Nel corso degli anni successivi Colacicchi fece altre due campagne di aggiornamento, di registrazione, di catalogazione della musica popolare della ciociaria. Lavori che poi sfociarono in due importanti incisioni. La prima, per conto della discoteca di Stato, contenente ben 111 brani eseguiti dal coro da camera di Roma da lui diretto, e l'altra, un long playing inciso per conto dell'ente provinciale per il turismo di Frosinone. Quest'ultimo lavoro risale al 1971. Che fu anche l'anno di uscita del film Per Grazia Ricevuta, interpretato dal ciociaro Nino Manfredi, il quale, avendo anche una buona impostazione musicale, interpretava alcuni brani all'interno di questo film. Quello che divenne famoso, una vera e propria hit, fu Me pizzica, me muzzica, uno dei tanti brani della tradizione popolare della ciociaria che era stato rielaborato e armonizzato da Luigi Colacicchi. Naturalmente la versione incisa da Manfredi era ben lontana dall'arrangiamento e dall'armonizzazione che ne aveva fatta l'etnomusicologo. Manfredi si limitava a sfruttare la parte melodica per farne un brano nazional popolare di facile consumo. Colacicchi invece ne aveva colto le potenzialità polifoniche, poi ampiamente sfruttate e messe in luce dai numerosi cori che, cimentandosi nel canto popolare, misero questa canzone nel loro repertorio. Me sono sonnato, me sono sonnato, me sono sonnato, me sono sonnato, me sono sonnato, me sono sonnato, me sono sonnato, me sono sonnato, me sono sonnato, me sono sonnato, me sono sonnato, me sono sonnato, me sono sonnato, me sono sonnato, me sono sonnato, me sono sonnato, me sono sonnato, me sono sonnato, me sono sonnato, me sono sonnato, me sono sonnato, me sono sonnato, me sono sonnato, me sono sonnato, me sono sonnato, me sono sonnato, me sono sonnato, me sono sonnato, me sono sonnato, me sono sonnato, me sono sonnato, me sono sonnato, me sono sonnato, me sono sonnato, me sono sonnato, me sono sonnato, me sono sonnato, me sono sonnato, me sono sonnato, me sono sonnato, me sono sonnato, me sono sonnato, me sono sonnato, me sono sonnato, me sono sonnato, me sono sonnato, me sono sonnato, me pizzichiamo, pizzichiamo, pizzichiamo, pizzichiamo, pizzichiamo, pizzichiamo, pizzichiamo, pizzichiamo, pizzichiamo, pizzichiamo, pizzichiamo, pizzichiamo, pizzichiamo, pizzichiamo, pizzichiamo, pizzichiamo, pizzichiamo, pizzichiamo, pizzichiamo, pizzichiamo, pizzichiamo, pizzichiamo, pizzichiamo, pizzichiamo, pizzichiamo, pizzichiamo, pizzichiamo, pizzichiamo, pizzichiamo, pizzichiamo, pizzichiamo, pizzichiamo, pizzichiamo, pizzichiamo, pizzichiamo, pizzichiamo, pizzichiamo, pizzichiamo, pizzichiamo, pizzichiamo, pizzichiamo, pizzichiamo, pizzichiamo, pizzichiamo, pizzichiamo, pizzichiamo, pizzichiamo, so pizzichi d'amore bella non fanno mai. Le pizzicame, mozzicame, stuzzicame, mazzicame. Le pizzicame, mozzicame, da solo pizzica. Nel mondo contadino non esiste solo il lavoro. Terminata la dura giornata nei campi, esiste anche il divertimento, a volte sfrenato, forse retaggio degli antichi riti dionisiaci. Nascono così gli ammiccanti stornelli a dispetto, accanto agli scatenati salterelli che, oltre al puro fatto coreografico, servono anche a mostrare la prestanza dell'uomo e della donna, che comunque dovranno maritarsi e procreare possibilmente una prole numerosa e robusta, perché i campi hanno bisogno di forti braccia per essere coltivati e portati avanti nel duro lavoro delle stagioni. E l'amore è quindi il protagonista di tante di queste composizioni, di questi brani tramandati da tempi ancestrali. Con Oilì Oilà termina questo radio documentario di Radio Ernica dedicato a Luigi Colacicchi. Ovviamente in poco più di mezz'ora non potevamo approfondire tutti i molteplici aspetti della vita di questo grande personaggio anagnino, che ci ha lasciati il 3 gennaio 1976 e riposa nella sua Anagni. Ovviamente al termine della trasmissione ci corre l'obbligo e anche il piacere di citare le fonti del nostro radio documentario. Iniziamo col Canto delle Zitelle, la famosa registrazione del 1939. Sempre di quell'anno abbiamo ascoltato un estratto della colonna sonora composta da Luigi Colacicchi per il film Animali Pazzi, in cui ascoltiamo anche la voce di Totò. Abbiamo ascoltato anche un commento del professor Gioacchino Giammaria, curatore della mostra su Luigi Colacicchi che si sta svolgendo in questo periodo presso la sede dell'ISALM, che è l'Istituto di Studi Storici del Lazio Meridionale, la cui sede è ubicata presso il convitto Regina Margherita, mostra che vi invitiamo a prenotare e a visitare. Abbiamo ascoltato anche la voce del vescovo di Anagni dell'epoca, dello storico vescovo Enrico Romolo Compagnone, nel documentario Rai del 1960 sul pellegrinaggio al santuario della Santissima Trinità. Abbiamo ascoltato quindi tre brani trascritti e armonizzati da Colacicchi. Il primo era un brano eseguito da una voce femminile solista, la Ninna Nanna, che abbiamo rintracciato presso il Museo della Cultura Agricola di Pontecorvo. Gli altri due brani invece erano entrambi eseguiti dal coro Musica Nova di Roma, Me Pizzica, Me Mozzica e Oilì, Oilà, eseguiti al Festival Guido da Arezzo da questo ensemble musicale romano. Ricordiamo che il Festival Guido d'Arezzo fu fondato proprio da Luigi Colacicchi ed è tuttora una delle rassegne coristiche più importanti d'Italia. Nel radiodocumentario avete ascoltato anche musiche tratte da opere di Petrassi, di Johann Sebastian Bach, Wynton Marsalis e Felix Mendelssohn Bartholdy. Vi ringraziamo per il cortese ascolto e vi invitiamo a rimanere sintonizzati su Radio Ernica, la radio di Anagni, 105,8 105,9 MHz della modulazione di frequenza. Siete sintonizzati su Radio Ernica. Buon ascolto! Radio Ernica, FM 105 900, www.radioernica.com.